33. Durante l'inverno, auspici e preghiere avevano mantenuto incandescente la brama di vendetta. Ogni giorno i Seneca ricordavano i guerrieri caduti a Oriscani. Le lacrime dei Mohawk erano ancora calde per Peter Johnson. Appena i sentieri furono liberi dalla neve, Joseph lasciò Forniagara e raggiunse Oquaga. La bandiera del re spiccava ancora al centro del villaggio, fradicia di pioggia e incapace di sventolare. Grazie al rum requisito dagli Hawk, dopo due giorni di festa il numero dei volontari era già raddoppiato. Alla fine di maggio, in 200 assaltarono un gruppo di fattorie nell'alto corso del fiume Schoharie. Alcuni coloni fecero in tempo a scappare, gli altri furono catturati insieme al bestiame. Joseph ordinò di radunare donne e bambini dentro un granaio di Cobbleskill. Quando i guerrieri se ne andarono, nel raggio di 3 miglia nessun altro edificio era scampato alle fiamme. Sul sentiero del ritorno Joseph trovò un messaggio infilzato su un bastone. Era firmato dal capitano McKean, a nome degli abitanti di Cherry Valley. Chiedevano che smettesse di minacciarli e affrontasse la milizia in uno scontro ad armi pari. Se non era un vigliacco, gli avrebbero mostrato volentieri come si trasformava un Brant, un'anitra selvaggia, in un'oca da cortile. A Oquaga Daniel Secord lo attendeva con 3 spie ribelli catturate nei dintorni. Il primo stava rientrando a Fort Stanwix. Doveva informare Gans Evoort che il giorno di Pentecoste Capo Brant aveva ucciso e scalpato 6 uomini nei pressi di Springfield. Il secondo era passato a Pentecoste dal lago Otsego e aveva visto con i suoi occhi le teste impalate di 2 noti ribelli e il simbolo di Thayendanegea inciso alla base dei sostegni, sotto una pioggia di sangue ancora fresco. Il terzo informatore portava una lettera per il generale Schuyler. Il comitato di sicurezza di Schoharie chiedeva l'appoggio dell'esercito contro i volontari di Brant, che nel giorno di Pentecoste erano piombati sul villaggio e avevano torturato e ucciso uomini e bestie. Felice di aver ricevuto il dono dell'ubiquità, Joseph ripartì subito verso ovest. Butler e Sayangarakta lo attendevano a Tioga per pianificare un attacco congiunto. In realtà i Seneca avevano già scelto da tempo il teatro della vendetta. La valle di Wyoming, una terra di sogno che i coloni avevano sottratto ai loro padri con l'inganno. Joseph decise di non seguirli, per non allontanarsi troppo da Oquaga. Le voci dicevano che i ribelli si preparavano ad attaccarla da un momento all'altro. John Butler e i suoi ranger unirono i loro battelli alle canoe dei guerrieri. Joseph risalì il Susquehanna da solo. La notizia gli arrivò una settimana dopo, mentre guidava i volontari verso nord. Fort Wyoming era caduto insieme ad altre 7 roccaforti. In meno di 4 giorni il fuoco aveva distrutto 1 migliaio di fattorie, stalle e granai. Gli uomini di Butler rientravano a Tioga con 400 capi di bestiame, 227 scalpi e 5 prigionieri. La ferocia di Mostro Brant al massacro di Wyoming era già oggetto di dispacci, maledizioni e articoli di gazzette. L'11 di luglio del 1778, 4° anniversario della morte di Sir William, Joseph si bagnò nelle acque del Mohawk dopo 3 anni di assenza. Poi discese la valle, ricolmo di orrenda. Ad Andrewstown appiccò il fuoco alle case senza controllare se fossero vuote. 8 scalpi bruciacchiati ornarono le cinture dei volontari e i tomahawk dei guerrieri. A Springfield risparmiò le fattorie degli alisti e la chiesa, fece fucilare 1 paio di spie, caricò quel che poteva trasportare e bruciò il resto. A German Flats, i tedeschi riuscirono a barricarsi nel forte e Joseph si maledisse per non aver portato 1 mortaio. Con i soli fucili, attaccare la palizzata era un'impresa impossibile. Jonas Klug sarebbe rimasto indenne, con l'unica sofferenza di dover guardare la sua casa divorata dal fuoco. Nel frattempo, la Francia era entrata in guerra al fianco dei ribelli e George Washington aveva messo una taglia sulla testa di Joseph. 100, 200, forse anche 500 sterline. Nel nuovo mondo, nessuna strategia per arricchirsi era veloce e sicura quanto uccidere Mostro Brant. Era l'indiano più odiato dai tempi di Pontiac.